Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come sempre venerdì vi sarà anche la nostra poco invidiabile classifica della settimana sugli sprechi. Allora, per quello che riguarda i temi economici, oggi la giornata, per una coincidenza anche, ha un tema sullo sfondo che infatti abbiamo chiamato, lo tratteremo nella seconda ora del programma, dove va il mondo dei consumi e della grande distribuzione. Perché? Perché al di là della vicenda di ieri, ossia l'offerta da 7 miliardi e mezzo su Esselunga da parte del colosso cinese dell'immobiliare e dell'energia IDA International Investment, ma tra l'altro oggi sia Giuliana che Marina Caprotti hanno ribadito che non c'è nessuna intenzione di vendere Esselunga, altra cosa è trovare invece, come alcuni ipotizzano, un partner di carattere internazionale. Però, al di là di questo, oggi succede una cosa strana. Il colosso globale delle vendite online, che si chiama chiaramente Amazon, che capitalizza 470 miliardi di dollari, ha 136 miliardi di giro d'affari e 341 mila dipendenti, che cosa fa lui che ha, diciamo, creato le vendite online? Poi certo ci sono, c'è anche Alibaba, il cinese Alibaba, ci sono poi le vendite online più mirate, penso a Zalando, altri gruppi sul moda, ma Amazon vende tutto e sta fornendo anche una parte di servizi, chiamiamoli così, quasi bancari alla clientela, prestiti e quant'altro. Beh, che cosa fa Amazon? Compra gli edifici fisici, nel senso che lui, che è stato l'artefice delle vendite online, vuole la parte fisica. Ha infatti acquistato Whole Foods, che è una catena, per chi conosce gli Stati Uniti, molto grossa negli Stati Uniti, 42 dollari per azione, con quasi 14 miliardi di dollari di acquisto, che continuerà a operare come marchio separato rispetto ad Amazon. E ha detto Jeff Bezos, il numero uno di Amazon: Whole Food piace a milioni di persone perché offre i migliori alimenti organici e naturali, e va bene, ci mancherebbe. Però la cosa interessante è che oltre che schizzare in borsa, il titolo ha fatto più 28% Whole Food, però è interessante che chi è sempre abituato a stare sull'online voglia comprare i punti vendita più classici e tradizionali. E tra l'altro i rivali affondano: Walmart perde il 6,33%, Walmart è il colosso della grande distribuzione americana. Nello stesso tempo però, e questo è veramente incredibile, Walmart, che è invece il più classico dei canali di vendita, cioè i grandi centri commerciali di Walmart negli Stati Uniti, va a comprarsi la società Bonobos, che rivende online. L'ha pagata 310 milioni di dollari e soprattutto è specializzata in abbigliamento e accessori maschili. Questo ci porta poi a ragionare su quello che sta capitando, ed è una rivoluzione in atto da tempo, ma che continua, al mondo della grande distribuzione, perché poi sappiamo che le ricadute e i modelli arriveranno prima o poi anche qua, magari modificati, ci mancherebbe. Per quello che riguarda il resto della giornata, segnalo che la notizia appunto più grossa è questa operazione da 14 miliardi di dollari di Amazon su Whole Foods, c'è un articolo del Financial Times dove si sottolinea che Google rischia una multa da 1 miliardo di euro da parte dell'antitrust della Commissione Europea, e Google risponde con un no comment. Per quello che riguarda invece la borsa, così iniziamo con le notizie in breve. Allora, Milano è invariata in questo momento, sono abbastanza piatte le borse. Parigi fa più 0,5, Francoforte più 0,3, Londra più 0,3, Dow Jones meno 0,1%, e l'euro a quota 1,20. Ancora, per quello che riguarda invece i titoli, bene oggi Brembo, più 2,31, Azimut più 1,80 come Case New Holland, 1,70 lo guadagna Terna, l'1,5 Leonardo, l'1,40 Ferrari ed Exor. Il fronte opposto vede Saipem meno 3, Biper meno 2,90, Jux meno 2,60, Banco BPM meno 2,20, Mediaset meno 1,60 come Intesa San Paolo, Unicredit meno 1,40. Oggi abbastanza tranquilla, devo dire, la situazione per quello che riguarda le notizie anche sul fronte italiano. L'Eurogruppo ha dato il via libera alla tranche da 8 miliardi, l'ho fatto ieri serata, alla nuova tranche di aiuti alla Grecia, 8 miliardi e mezzo. Il Fondo Monetario entrerà, ma i fondi li metterà solo dopo. Intanto lo ha specificato Christine Lagarde, proporrò di entrare al board, di entrare con una somma che sarà sotto i 2 miliardi di euro, ma solo dopo che i fondi, ma solo dopo che si faranno nuovi progressi sul debito, perché il Fondo Monetario crede che vada fatto di più e i partner hanno bisogno di più tempo. E Dijsselbloem ha detto che l'accordo riguarda tutti, riguarda anche il Fondo Monetario Internazionale. Da qui andiamo direttamente alle notizie in breve che ci riguardano, e quindi il vertice Ecofin. Il numero, come sempre, per SMS e WhatsApp è 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ricordo che il programma è trasmesso in video anche su Facebook. Chiedo scusa, ho detto euro dollaro 1,20, euro dollaro è 1,12, non 1,20, ci mancherebbe 1,12. E dicevo dell'Ecofin sull'Italia, il Consiglio Generale ritiene che l'Italia debba tenersi pronta a prendere nuove misure per assicurare il rispetto del patto di stabilità nel 2017-2018, ma la valutazione dei conti sarà fatta, dice l'Ecofin, tenendo conto della condizione del ciclo economico. E tra l'altro poi l'Ecofin scopre l'acqua calda, massimo rispetto, scopre l'acqua calda perché dice il sistema tributario italiano, cioè il sistema delle tasse in Italia, non sostiene la crescita economica, ma va, e l'efficienza in molti campi. Nonostante la recente modesta riduzione, il fardello fiscale sui fattori produttivi resta tra i più alti dell'Unione Europea. C'è margine per una tassazione meno dannosa per la crescita in modo neutrale per il bilancio. Questo è quello che chiedono. Sostanzialmente sia Fondo Monetario che OCSE che Commissione Europea, poi uno può essere d'accordo o no, dicono dovete spostare ridurre la tassazione in generale e in ogni caso spostarla dai fattori produttivi, che vuol dire IRPEF e IRAP per capirci, da chi il lavoro lo dà e chi il lavoro lo fa, a altre forme. Chiedono, hanno chiesto recentemente un riammodernamento dell'intera mappa catastale del paese e una tassazione sugli immobili, da preferirsi la tassazione sul lavoro, cioè la parte della rendita. È da sempre la posizione di Bruxelles su questo, più la rendita che non il lavoro prodotto. Noi abbiamo un atteggiamento molto diverso, la rendita non la tassiamo, e mi riferisco anche alla scomparsa dell'ICI o dell'IMU, come si chiamava, sulla prima casa, e abbiamo un cuneo fiscale altissimo. Io so benissimo la preoccupazione degli ascoltatori, che devo dire che è anche la mia, che in questo paese il rischio è che quando tu rimetti una tassa non ne levi un'altra, per cui tutto questo ha un senso se è parte di un pacchetto in cui dice bene, liberiamo risorse tra i lavoratori e magari andiamo a vedere sulle case, no, di una fascia, da una certa fascia in su, se si possa avere un contributo da parte dei proprietari. Però il rischio in questo paese è che quando tu metti una tassa, cosa che è avvenuta anche con IMU e ICI, abbiamo raccontato l'ICI come è salita nel corso degli anni, come la TARSI, la TASU e cos'era diventata, senza che vi fosse mai un segnale di riduzione significativa di IRPEF e IRAP. Questo è il vero problema che mi permetto di segnalare all'Europa, ed è il motivo per cui qui c'è molta diffidenza quando c'è l'idea di reintrodurre una tassa, perché siamo abituati che non se ne leva per un ammontare equivalente un'altra. Comunque Padoan ha chiarito: non ci sono indicazioni che possa essere rigettata la richiesta italiana di fare un aggiustamento dello 0,3% nel 2018, così il ministro del termine dell'Ecofin. Il clima generale di valutazione della fiscal stance, dell'intonazione di politica fiscale nella zona euro è una valutazione più equilibrata che in passato, perché tiene conto della necessità di continuare il consolidamento del bilancio, ma anche di sostenere la crescita. Quindi questo è in questo contesto che l'Italia ha scritto la lettera dello 03. Non ci sono numeri, non ci sono indicazioni che mi fanno pensare che questa nostra decisione, che noi abbiamo annunciato proprio tenendo conto del contesto, possa essere, diciamo, rigettata. Comunque, diciamo, a me sembra, anzi ne sono fermamente convinto, che le giustificazioni dello 03 sono assolutamente solide in sé e coerenti con il quadro di politica economica europea. Padoan di nuovo interviene sulle banche venete. Stiamo lavorando duramente e proficuamente con le istituzioni coinvolte. Sono fiducioso che vi sarà una soluzione positiva a breve. Stiamo lavorando duramente e proficuamente con le istituzioni europee coinvolte. E sono fiducioso che una soluzione positiva sarà raggiunta a breve. Il modo in cui regole dell'unione bancaria si applicano in pratica è ancora in parte un terreno inesplorato. Bisognerà riflettere in futuro, anche alla luce di informazioni che potranno rendersi disponibili, come per esempio il caso Banco Popular ha fornito delle lezioni, ma diciamo è ancora presto per poter trarre conclusioni in questo senso. Mi è sembrato, in una brevissima scambio di battute sul Banco Popular ieri, che ci sia da parte di tutti i soggetti coinvolti, quindi paesi e istituzioni, la volontà di trarre tutte le lezioni possibili dai casi concreti. E questo è sicuramente un atteggiamento positivo, perché è una, diciamo, propensione a cercare di capire come si possono migliorare i quadri di regole. Secondo, vorrei ribadire, non me l'ha chiesto ma lo ribadisco lo stesso, che quello che l'Italia ha fatto prima col Montepaschi e sta facendo adesso nei confronti delle banche venete è assolutamente coerente con le regole. Ancora sulle banche venete, dovrebbe arrivare sul tavolo dei dovrebbe essere già praticamente sul tavolo del Consiglio dei Ministri perché è convocato nel tardo pomeriggio, il decreto con cui congelare il rimborso dei bond subordinati di Veneto Banca in scadenza il prossimo 21 giugno. Devo dire che è stato solo 24 ore a anticipare questa indiscrezione. Questo si rende necessario, è solo un congelamento. In attesa che si capiscano e si chiariscano i contorni del piano di salvataggio delle banche venete. Il salvataggio nel frattempo, ma delle banche spagnole, nel periodo 2008-2014 sono costati ai contribuenti iberico, lo dico perché noi giustamente siamo molto attenti a quanto ci è costato il Monte dei Paschi con l'ultima operazione, quanto ha stanziato complessivamente il governo, sono 20 miliardi per tutta l'operazione, per tutto il decreto salva banche. Però ricordiamo spesso che l'Olanda ce ne ha messi 58, la Germania 174 di miliardi. La Spagna oggi fa sapere che nel periodo 2008-2014 salvare le banche spagnole, è il Banco de España che lo dice, è costato al contribuente iberico 76 miliardi di euro. Ne ha recuperati lo Stato solo 4 miliardi. Forse ne potranno rientrare altri 12 miliardi. Questo non vuol dire mal comune mezzo gaudio, ma vuol dire che, attenzione, se si pensa che l'idea che le banche debbano essere salvate per il loro effetto sistemico sia un'idea solo italiana, guardate cosa hanno fatto Spagna, Olanda, Germania e anche Francia in questi anni. Appunto, il Banco de España sostiene che solo il 21% di questi 76 miliardi potrà rientrare nelle casse pubbliche se va bene, in particolare gli aiuti a 14 casse di risparmio, le caisse spagnole sono stati pari a 64 miliardi e poi altri 10 miliardi di garanzie sugli attivi e altri 2 miliardi di garanzie. Ancora una notizia che riguarda il commercio con l'estero, l'Istat cala l'export nel mese di aprile meno 1,8%, questo sul mese, però e sull'anno meno 2,8%, questo non è un buon dato, c'è stata una correzione, una frenata, tra l'altro cala del 5 rispetto all'aprile 2016, del 5,5% in Germania l'export, del 4,5% in Francia, in Spagna dell'1,6%, in Gran Bretagna dell'8%, negli Stati Uniti del 10%, la Russia va bene più 13%, l'OPEC invece meno 17%, Cina più 5%. E ancora due notizie in breve per quello che riguarda l'Italia. Non si è raggiunto l'accordo tra l'Italia e i sindacati sulla procedura di cassa integrazione straordinaria, lo hanno riferito i sindacati. Non sono infatti cambiati, dicono i sindacati, i numeri della cassa integrazione a zero ore, su cui i sindacati si sono detti indisponibili a siglare un accordo. Secondo gli ultimi numeri forniti dall'azienda, la cassa integrazione straordinaria a zero ore dovrebbe riguardare l'equivalente di 317 persone. Poi faccio notare, insomma, che il garante per gli scioperi, in una giornata di sciopero del trasporto pubblico che sta colpendo tutte le città coinvolte, ma in maniera particolare Roma, ha detto Giuseppe Santoro Passarelli: ad oggi noi come autorità di garanzia possiamo solo fare segnalazioni, ma poi è necessario l'intervento del legislatore, perché l'ultima modifica sulla regolamentazione degli scioperi è stata quella del 2000 e oggi siamo nel 2017. E poi una notizia che ci porta dritti dritti alla nostra classifica. Blitz dei NAS all'ospedale San Paolo di Napoli, dove nei giorni scorsi ne abbiamo parlato anche noi, abbiamo avuto anche il direttore dell'ospedale ospite della Zanzara. Si è scoperto che il letto di una donna ricoverata in medicina era ricoperto di centinaia di formiche e poi è venuto fuori che c'erano anche le blatte e altre cose. I militari stanno effettuando controlli sul servizio di pulizia e di vigilanza, in corso anche accertamenti anti-assenteismo, lo dico senza ironia, in bocca al lupo ai carabinieri. E qui andiamo alla classifica dritti dritti, partendo non da San Paolo, diciamo, lo citeremo, ma anche da San Paolo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La classifica della settimana. Non vogliamo tornare infatti sul caso del San Paolo, ce ne siamo occupati nei GR 24, nei programmi. Faccio notare che tutto avviene grazie alla denuncia del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. La signora era in cura per uno shock settico post fratture sotto antibiotici. Tra l'altro, insomma, poi inizia lo scaricabarile, sono anni, dice Borrelli, che denunciamo la presenza di insetti, compresi gli scarafaggi, all'interno dell'ospedale. Non possiamo accettare che il paziente sia trattato in questo modo. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo Luca, la sanità è di pertinenza regionale, dice, ha detto: la sanità della Campania è un disastro e stiamo lavorando all'ultimo respiro per riqualificare una sanità che ha delle eccellenze, ma è stata per tanti decenni al servizio della politica politicante, inquinata da camorristi, da affaristi di ogni tipo. Poi il direttore di San Paolo, che ha detto: beh, le formiche erano sul letto, non sul corpo. Ma prego, Vito Rago è arrivato da poco, ma già sta pestando la prima cosa che assomiglia a una cioccolata. Che c'entra? Erano sul letto, ma se le davi un po' di tempo, magari essendo formiche arrivavano anche sul corpo. E lui ha detto: ricopro questo incarico da appena 20 giorni, l'ho detto alla Zanzara, non voglio giustificarmi, ho chiamato il servizio di bonifica, ho fatto cambiare il letto. Però a me interessa un'altra cosa. Sarà anche in mano alla Camorra, abbiamo raccontato di scandali in questi 3 anni anche della sanità campana. La Campania versa 300 milioni e lì De Luca sbaglia nel dire alle regioni predatorie del nord, no no, sono i pazienti della Campania che decidono di andare a farsi curare in altre regioni, e la Campania versa 300 milioni sostanzialmente al nord per i pazienti che vanno lì a farsi curare. La Calabria ne versa 251 milioni, Lazio 200, la Puglia 190, la Sicilia 160. Perché lo dico? Perché in Puglia, nonostante tu abbia, uno dirà, lei ce l'ha con Emiliano, no, no, ma chi se ne frega degli ulivi ormai, dico, in Puglia, nonostante tu abbia un deficit di spesa sanitaria, nel senso che devi pagare le regioni del nord, che sono Lombardia, essenzialmente Emilia Romagna, e anche Toscana e Veneto hanno grossi incassi dalla mobilità sanitaria, dal turismo sanitario, soprattutto Lombardia, mezzo miliardo, e l'Emilia Romagna quasi 330 milioni. Dicevo, nonostante tu abbia una regione in cui ogni anno la sanità deve tirar fuori 190 milioni da dare a altre regioni, che cosa ha fatto la sanità regionale pugliese? Che cosa avrà mai fatto la regione Puglia? Aumenta lo stipendio dei dirigenti delle ASL fino a 40.000 euro in più l'anno. Io voglio dire una cosa, non ho niente in contrario che vengano dati dei premi ai dirigenti delle ASL, perché sicuramente anche in Puglia vi saranno dirigenti delle ASL bravissimi, che fanno bene il loro lavoro, che hanno delle ASL più efficienti dell'altra, ma non capisco il criterio. La regione ha portato in giunta una delibera, nonostante il piano di contenimento dei costi, la chiusura di alcuni ospedali, e poi parleremo, vi anticipo che è in classifica la gestione dei treni pugliesi, ma lasciamo stare un attimo questa cosa. Nonostante il piano di contenimento dei costi, la chiusura di alcuni ospedali, tra l'altro preciso che molte volte è giusto chiudere alcuni ospedali nonostante le proteste, perché quando è meglio farsi curare in un grande centro con molta conoscenza delle malattie che non in un piccolo ospedale generico, i piccoli ospedali casomai devono servire da smistamento, ma chiudo la parentesi, quindi non è un'accusa sulla chiusura di piccoli ospedali, ma hai fatto un contenimento dei costi, hai chiuso gli ospedali da luglio, i compensi dei direttori generali passeranno dagli attuali 111.000 euro a 155.000 euro. Presidente Emiliano, ma ha qualcosa da dire su questo o è ancora rimasto sugli ulivi con la xylella e i 220 ulivi? Anche perché il provvedimento che cancellava i tagli alle buste paga dei manager era stato fatto dal suo predecessore Nichi Vendola. Meno 30%, un primo taglio del 20% tramite delibera, un secondo taglio del 10% con legge regionale. Assieme ai compensi dei direttori generali furono ridotti anche quelli dei direttori amministrativi e sanitari, che passarono da 123.000 a 90.000 euro. Chiaramente si scatenò la polemica dei manager che si sono ritrovati a percepire uno stipendio inferiore a quello dei direttori degli istituti sanitari. Anche la regione si pose dubbi, comunque la cosa c'era e andava avanti. La richiesta di ritoccare verso l'alto gli stipendi viene formulata già lo scorso 31 maggio, respinta dalle opposizioni. A questo punto la giunta Emiliano decide di far da sé, la delibera ridetermina il trattamento economico ai direttori generali eliminando la prima decurtazione del 20%. L'aumento non sarà uguale per tutte. E tu dici, beh, lo faranno in base al merito. Ma che è il merito? Merito. Ma no, vengono divisi in due fasce. Direttore generale di prima fascia, dirigente delle 6 ASL, 2 policlinici di Bari e Foggia, percepiranno un trattamento economico di 140.000 euro. Quelli di seconda fascia, ossia i dirigenti IRCS di Bari, Castellana Grotte e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, avranno uno stipendio lordo di 125.000 euro l'anno. Di conseguenza verranno rivisti verso l'alto anche i compensi dei direttori amministrativi e sanitari nella misura dell'80% del trattamento attribuito al direttore generale. Ma non è finita qui. I manager avranno la possibilità di far salire ancora i loro stipendi di un altro 20% previa valutazione regionale dei risultati di gestione ottenuti e dalla realizzazione degli obiettivi di salute assegnati ai direttori generali. Allora, governatore Emiliano, noi le vogliamo bene. Il problema è che una regione che spende 190 milioni di euro ogni anno per pagare i suoi cittadini che vanno a farsi curare al nord, mi deve spiegare perché meritano un aumento i dirigenti delle ASL, ma soprattutto perché non c'è un elemento meritocratico. Qua è prima fascia, seconda fascia, chi se ne frega di come va come vanno le 6 ASL, come viene il suo policlinico di Bari, di Foggia. Magari una ASL va benissimo, un policlinico è benissimo, ma non si può Chi se ne frega di come va l'istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata o i dirigenti delle IRCS di Bari, Castellana Grotte? E poi c'è la possibilità di trattare un altro 20% in base agli obiettivi raggiunti. Tutto normale? Però lo sappiamo che il problema della Puglia sono i 220 ulivi, e mi ricorda molto quel vecchio Benigni sulla Sicilia, ma non voglio confondere le regioni. Andiamo sul meteo, poi quarto, terzo, secondo e primo posto. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister Eye. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. jaygalileo.com. Focus Economia. Di nuovo in diretta, abbassiamo un attimo la base perché devo dare una notizia che hanno battuto pochi minuti fa le agenzie. È morto Helmut Kohl, un gigante politico, comunque ognuno lo pensi, artefice non solo della riunificazione tra le due Germanie, ma anche diciamo dell'idea di un'idea di Europa. Non voglio fare polemiche su quello che disse Kohl negli ultimi anni, sull'attuale cancelliere tedesco Angela Merkel, che pure era stata suo pupillo, poi gli girò le spalle, ma lasciatemi dire che lì avevamo a che fare con un gigante della politica, uno statista vero, capacità di visione e quant'altro, lì. Poi ognuno la pensi come vuole adesso. Comunque è morto Helmut Kohl, era nato il 3 aprile del 1930, si era ritirato dopo aver traghettato la Germania dall'unità dopo la caduta del muro, è stato cancelliere della Germania dall'82 al 98 per 16 anni, si era ritirato dalla politica e tra l'altro aveva avuto un lutto molto grave in famiglia nel 2001 con il suicidio della moglie dopo 53 anni di matrimonio. La moglie era gravemente malata. Se ne va appunto un, come si dice in questi casi, ma senza retorico, un protagonista della storia recente dell'Europa e ripeto, un gigante, ma non nel senso fisico, nel senso della statura politica, un gigante della politica. Ritorniamo alla classifica e lo dico col massimo rispetto, dai giganti dobbiamo tornare ai nani. Oh, senza nessuna offesa in questo caso, però qualcuno si ricorderà che nel referendum del 4 dicembre forse la cosa che tutti condividevano, sia chi uno fosse per il no che fosse per il sì, era l'eliminazione dell'inutile CNEL, dopo che nel 2013 era stato travolto dagli scandali dove si era emersa una distribuzione a dir poco allegra di consulenze, rimborsi, spese e diarie, che aveva portato a un azzeramento di incarichi e prebende. Passata la paura del referendum, adesso però si torna a parlare del CNEL. Io ho massima stima, sono ospite molte volte da noi, Tiziano Treu, il professor Tiziano Treu, che adesso è il neo presidente. Ha detto sarebbe disdicevole lasciarlo marcire, però insomma faccio notare che quello che non sta marcendo sicuramente sono i contenziosi. Tra l'altro la corsa alla rappresentanza del CNEL riparte dall'attuale normativa, dall'assetto a 64 membri scelti a discrezione del Consiglio dei Ministri in base a una rappresentatività che è del tutto discrezionale come Consiglio dei Ministri. Addirittura c'è qualcuno che ha ventilato l'aumento dei componenti, sono già 64. Quanti devono essere? Restano in piedi intanto nel CNEL i contenziosi tra lo Stato e i vecchi consiglieri su stipendi e rimborsi, e chiaramente anche rinvigoriti dal fatto che il CNEL sia sopravvissuto. Ad aprile scorso i membri dell'assemblea del CNEL si sono votati all'unanimità il ritorno delle indennità. Alle volte ritornano, cancellate nel 2015, vedi che poi c'è niente da fare. Tu. Allora, con l'aggiunta di quasi 2 anni e mezzo di arretrati, quindi chiedono le indennità dopo che erano state eliminate nel 2015 e vogliono anche gli arretrati per un totale di 4 milioni di euro, ossia 25.000 euro lordi l'anno per i consiglieri semplici più rimborsi spese, 45.000 euro all'anno per i vicepresidenti e 215.000 euro per il presidente, senza che io abbia ancora mai capito a che cosa serve attualmente il CNEL, che cosa fa il CNEL, che cosa produce di irrinunciabile, lo dico con massimo rispetto, è ovvio qualcosa produrrà il CNEL e via così. E questo è il fronte dei 4 milioni di euro di contenzioso, di rimborsi che hanno chiesto. Poi c'è il confronto con lo Stato sulla presunta autonomia regolamentare del CNEL davanti alla Corte dei Conti. L'istruttore è partita nel 2013. Dopo la denuncia del segretario generale del CNEL e magistrato della Corte dei Conti Franco Massi, sotto inchiesta sono finiti 15 tra gli allora presidenti e vicepresidenti di commissione. Spiccano i nomi dell'ex presidente Antonio Marzano, ex ministro, e Salvatore Bosco, e dell'ex segretario generale Michele Dau, e via così. Tra l'altro, dopo 40 ore di interrogatorio e aver passato dal setaccio la documentazione contabile, il vicepresidente generale Tammaro Maiello ha accertato, guardando la documentazione contabile dal 2008 al 2013, uno sperpero di pubblico denaro che assomma 8 milioni di euro tra convenzioni di ricerca affidate all'esterno, questo nel periodo 2008-2013, e adesso gli attuali consiglieri vogliono chiedere il ritorno, visto che c'è di nuovo l'indennità cancellata nel 2015, vogliono chiedere, non erano gli stessi, però dico semplicemente, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Dal 2008 al 2013 viene contestato uno sperpero di denaro pubblico che assomma 8 milioni di euro tra convenzioni di ricerca affidate all'esterno, consulenze, contratti di servizio affidati senza gara, diarie e spese di missione e acquisti indebiti. La prescrizione è arrivata, la prescrizione ha ridotto la richiesta di risarcimento a 740 mila euro, cioè, insomma, ma l'eventuale riconoscimento del dolo, oltre che la colpa grave, potrebbe riaprire i danni. La linea difensiva degli ex dirigenti, che chiedono la soluzione e anche un risarcimento simbolico di un euro, si basa sull'assunto che l'attività del CNEL in quanto organo di rilievo costituzionale, questo perché era il motivo per cui andava eliminato con un referendum, non sarebbe regolata dalle leggi dello Stato sul funzionamento della pubblica amministrazione, come per esempio il codice degli appalti, ma dai regolamenti interni al pari del Parlamento e della Presidenza della Repubblica. Ora, questo è tutto vero, ma nulla questio, come dicono i giureconsulti, sul fatto che se anche sei regolato da regolamenti interni, non puoi rubare, non puoi mandare, che questa è l'accusa che gli fanno, lo dice Tammaro Maiello, non puoi sperperare i soldi pubblici. Quindi cosa vuol dire? Siccome tu hai regolamenti interni, non devi stare al regolamento della pubblica amministrazione, va tutto bene, comprese le ricerche affidate a società riconducibili a membri dello stesso CNEL, pure quello fa parte degli regolamenti interni, a sindacalisti e a personale di segreteria per dati che si riferivano su Google, no? All'Istat e nelle pubbliche amministrazioni, bastava chiedere. E dai. Intanto ci teniamo il CNEL e andiamo sul traffico. Focus Economia. Terzo posto, andiamo rapidi al terzo posto perché non ho nulla da aggiungere se non dare il massimo sostegno per quello che vale alla battaglia che sta conducendo l'attore e personaggio dello spettacolo PIF sui disabili in Sicilia. L'abbiamo raccontata, c'è stato di tutto, la manifestazione. Ha scritto una lettera bellissima, non ve la posso leggere tutto, immaginando di essere un marziano, un po' come Flaiano quando fece un marziano a Roma, dicendo: guarda, caro marziano, io pensavo che con quello che ho messo in campo, con l'appoggio di altri personaggi dello spettacolo, Fiorello, Giovannotti, Ficare, Picone, questo avrebbe cambiato. Invece non è successo nulla, sapete che mancano i soldi per i disabili siciliani, e tra l'altro lui cita l'assessore Miccichè che in maniera schifosa e ignobile dice: PIF aveva promesso aiuto a due fratelli tetraplegici Pellegrino in cambio di un loro aiuto, anche se non si è mai capito quale. Comunque PIF scrive una lettera bellissima e chiude dicendo: la regione Sicilia non ha i soldi per l'assistenza ai disabili, con persone in Sicilia con disabilità gravissima sono 3.682, servirebbero 460 milioni di euro. E PIF fa notare che ha trovato i fondi per le pensioni, la Regione Sicilia riesce a trovare i fondi per le pensioni di 51 parlamentari, che eletti nel 2012, dopo 4 anni e 6 mesi e un giorno, avranno diritto a un assegno di 1000 euro a partire dal loro 65esimo compleanno. Però io voglio dare una mano a PIF su questo, dandogli due precisazioni. La prima è che dopo gli appelli di PIF, Giovannotti, Fiorello. Ma io dico una cosa, ma che paese è un paese in cui, col massimo rispetto per Giovannotti, PIF, Fiorello, devono intervenire attori, cantanti, comici per sanare un problema di disabili in Sicilia? Ma non vi vergognate? Cioè, che solo quando lo sputtanamento, scusatemi la parola, è televisivo, allora prendo un po' di paura. Vabbè, detto questo, il governatore Crocetta ha detto che 174 disabili gravissimi della provincia di Palermo hanno ricevuto l'accredito ai primi tre mesi dell'assegno di cura, 1.500 euro al mese. Molti altri lo riceveranno. Sono 174 per tre mesi su 3.000 e 680 per un anno che servono come disabili. Crocetta, va benissimo, ma muoviamoci, siamo arrivati a giugno. Detto questo, ma non mi devo incavolare, facciamo notare banalmente che mentre c'è un problema enorme nel trovare i soldi per i disabili, anche trimestralmente, non dico che devi tirare fuori subito tutti i soldi in una botta sola, daglieli a tre mesi, in tre mesi, non c'è stato nessun problema e non c'è nessun problema a pagare cifre folli l'Assemblea regionale siciliana. Il parlamentino paga 10 milioni l'anno per 190 vitalizi diretti e 8 milioni l'anno per 130 assegni di reversibilità. Mi scusi Crocetta, ma se cancellaste sti cavolo di assegni di reversibilità e riduceste di un po' i vitalizi, avreste, visto che sta dicendo che stanno dando adesso 1.000 euro al mese per tre mesi a 173 persone, ma si faccia due conti: se levi 8 milioni da una parte e riduci anche del 20% il vitalizio, hai già recuperato 11 milioni, altro che inizia a dare a tutti. Ma la matematica, Crocetta, e Micicchè, il suo assessore. Tra l'altro, i 130 segni di reversibilità vanno, l'abbiamo raccontato mille volte, a delle cose incredibili. 3.000 euro al mese alla figlia di Ignazio Adamo, marsalese, eletto per il Blocco del Popolo ed era nel Parlamento siciliano fino al 1955. Anna Maria Cacciola, discendente in linea diretta, ma chi se ne frega, di Natale Cacciola, che nacque in provincia di Messina prima del terremoto, si candidò nel 47 per il Partito Monarchico, stette 4 anni all'Assemblea regionale siciliana. E la signora percepisce, essendo figlia in linea discendente in linea diretta, un vitalizio di 2.000 euro al mese. Elios Costa, che praticamente la vedova prende tuttora 2.500 euro netti al mese, uno che è stato nel Parlamento nel 1947, Pietro Di Carla, la vedova tuttora nella signora versività, ma Francesco Lanza di Scalea, no, la moglie continua a prendere 2.000 euro, è stato 3 anni in Parlamento. Io non ce l'ho con le vedove, però se devo scegliere tra, lo dico con il massimo rispetto, la vedova di un parlamentare che ha fatto 4 anni all'Assemblea siciliana nel 55 e i disabili nel 2017 gravi, non avrei dubbi, Crocetta. Ma adesso la lasciamo al GR24 e andiamo dopo al secondo e primo posto, li facciamo velocemente 349-238-6666 per sms, whatsapp e poi la diretta di Focus Economia sulla pagina di Facebook. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Waferlago. Waferlago, dolci emozioni italiane. State ascoltando un programma offerto da Dottor J e Mister I. Trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. jgalileo.com. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vado alla seconda e alla prima notizia, senza soluzione di continuità, perché riguardano lo stesso tema, ossia le ferrovie pugliesi. Poi adesso dirà Emiliano che ci abbiamo con lui, ma non è così. Allora, purtroppo, anzi per fortuna, una sciagura poteva essere una tragedia. Mi riferisco allo scontro frontale sulla linea Lecce-Zollino, che si è concluso, tra virgolette, fortunatamente con un bilancio di una decina di feriti, visto che un anno fa, meno di un anno fa, ricorderete ahimè, lo scontro sulla linea ferroviaria Bari-Barletta portò a 23 morti e una cinquantina di feriti. Sapete la cosa più allucinante qual è? È che se da una parte hai una linea ferroviaria come l'Andria-Corato, dove nonostante 10 anni dalla decisione di ammodernare la linea, tra Corato e Barletta non c'è traccia di ammodernamento che avrebbe salvato le 23 persone per motivi burocratici, un sistema kafkiano dove le responsabilità si disperdono in mille rivoli, lo scaricabarile come unica bussola e lavarsi la coscienza come unico obiettivo. Tra l'altro le ferrovie del Nord Barese, un'opera per l'ammodernamento nel 2007, dissero che erano disponibili 180 milioni di euro, non si è mai realizzato nulla, tant'è che in Puglia i chilometri ferroviari a doppio binario sono 300, quelli a binario unico sono 530, quelli con ripetitore di segnale che blocca automaticamente il treno in caso di errore umano attivo sono solo 170 chilometri su 530. Questo è, ma la cosa, le cose allucinanti per cui gli abbiamo dato il secondo posto prima di arrivare al primo è questa. Questa è la situazione sulla Andria-Corato, non sto scherzando. Dall'altra parte, cioè a pochissimi chilometri di distanza, a Monopoli, c'è la Mermec di Vito Pertosa. Sapete cosa fa la Mermec? È uno dei leader mondiali nella sicurezza anche ferroviaria, oltre che delle metropolitane. Ma ci rendiamo conto? Abbiamo da una parte una linea che sembra il Far West, dall'altra c'è un gioiello, Mermec, ha 700 ingegneri ma dice che vuole assumere un altro centinaio, vince gare in tutti i continenti sull'innovazione, praticamente ha 3 ingegneri ogni 4 dipendenti, è partita dalle macchine per raccogliere l'uva delle vigne, è diventato un colosso planetario, ha 56 mercati in giro per il mondo, ha messo in sicurezza la metropolitana di Londra, quella di Seoul, quella di Parigi, quella di Singapore, tutti si affidano alla multinazionale barese. Hanno scelto i suoi sistemi diagnostici anche le ferrovie tedesche, quelle francesi, quelle turche, quelle australiane, quelle finlandesi, fino al Shinkansen, l'alta velocità giapponese, per quella dei treni proiettili, intesi come veloci, e anche l'Hyperloop, cioè l'ultratreno che andrà da Toronto a Montreal in 40 minuti, viaggerà a 1220 km l'ora e utilizza la Mermec di Monopoli per la sicurezza. A pochi chilometri invece c'è ancora l'Andria-Corato, è un paese bellissimo questo. E andiamo a questo proposito al primo posto. And the winner is... le ferrovie del sud-est. Perché? Perché da un lato abbiamo la somma delle nefandezze accumulate dalle ferrovie del sud-est nella relazione presentata dal Ministero delle Infrastrutture il 20 marzo scorso. Scrive la relazione: le ferrovie del sud-est hanno smarrito la propria missione, il trasporto pubblico locale, l'azienda aveva libro paga 1500 dipendenti e ha accumulato debiti con tutti i fornitori, dipendenti, INPS, banche, contabilità definita fittizia, frutto di comportamenti che configurano profili importanti di responsabilità, come ad esempio un credito di 76 milioni della Regione Puglia che quest'ultima disconosce. La rete è antiquata, ha nella sola provincia di Bari 26 punti di rallentamento e neanche un chilometro elettrificato. Comunque su 27 treni solo 8 erano in totale efficienza, 13 fermi. Di 25 carrozze acquistate nel 2010 ne circolavano solo 3, mentre i 3 locomotori tedeschi costati 5.600.000 euro non hanno mai trasportato un passeggero, 2 addirittura non sono riusciti a percorrere neppure pochi metri, 1 ha effettuato pochi chilometri di prova rientrando in stazione rigorosamente trainato. E questa è una cosa bellissima, perché sui treni, sui locomotori, non sto scherzando, sui locomotori tedeschi costati 5.600.000 euro, uno degli ostacoli alla loro entrata in servizio fu data dal fatto che il libretto delle istruzioni era scritto in tedesco. Achtung! E tu te lo immagini, no? Il povero macchinista pugliese che deve tradurre in tedesco, lingua ignota. Il livello di puntualità nel 2015 è stato inferiore all'80%. E poi gli sprechi. Dal 1998 un dirigente d'azienda distaccato a Roma presso la segreteria tecnica del Ministero dei Trasporti, nonostante gli stacco a tempo pieno, l'azienda ha continuato per 17 anni a farsi carico dello stipendio. Nessuno neanche sapeva l'esistenza di questo dirigente fantasma. Poi c'era il direttore del personale, lo abbiamo già raccontato, che era il direttore del personale delle Ferrovie Sud-Est pugliesi, ma risiedeva a Roma e si faceva pagare la trasferta per venire a Bari e pigliava 220.000 euro l'anno, no? Una trasferta all'incontrario, cioè non per tornare a casa, ma per andare in azienda. Poteva farsi la residenza a Bolzano, dato che c'era. E poi Luigi Fiorillo. Luigi Fiorillo è stato il grande patron dell'amministratore unico delle Ferrovie del Sud-Est per anni, adesso vi dico anche per quanti anni. Lui, 18 anni in tutto. Lui ha avuto in 10 anni compensi per 13 milioni di euro. La sola gestione dell'archivio è costata 720.000 euro in 8 anni. E via così. La buona notizia qual è? Tra l'altro le Ferrovie del Sud-Est hanno pagato in parcella, abbiamo raccontato anche questa, a avvocati, delle volte con sospetto che fossero amici, 54 milioni di euro di parcella agli avvocati. 54 milioni di euro. La buona notizia qual è? Oh, che c'è stato un maxi sequestro da 180 milioni di euro. Al di là del fatto che io capisco i risparmi di una vita, l'eredità di tua nonna ed eri ricco di famiglia, ma sequestrati 180 milioni di euro perché hai fatto il dirigente delle Ferrovie del Sud-Est, forse hai guadagnato un po' troppo, forse. 180 milioni di euro di sequestro ha disposto il Tribunale Civile di Bari nei confronti di Luigi Fiorillo, a cui si contesta di aver dissipato risorse aziendali per centinaia di milioni di euro con consulenze d'oro, appunto, e incarichi milionari. L'ordinanza l'ha firmata il giudice barese Francesco Cavone. E gli avvocati di Fiorillo hanno 15 giorni per impugnare l'ordinanza, ovviamente lo faranno, e poi va avanti l'azione civile per il risarcimento dei danni chiesto dalla società, accusato lui di aver provocato il dissesto dell'azienda che doveva invece tutelare. E un applauso lo do, fermi, alla richiesta di maxi sequestro da 180 milioni, convinto che Fiorillo saprà giustificare tutto, i compensi da 13 milioni da 1.300.000 euro l'anno, il dissesto delle Ferrovie del Sud-Est, il dirigente fantasma distaccato dal ministero, il capo del personale che se ne stava a Roma e veniva pagato pure dalla trasferta per venire a Bari. Un applauso a Fiorillo, un grande in bocca al lupo per la sua, come ci auguriamo, futura dimostrazione di assoluta innocenza. Allora, intanto mi scrivono alcuni ascoltatori che al 349-238-6666 che i parlamentari del 5 Stelle hanno rinunciato alla pensione da onorevole nel Parlamento siciliano. Avete ragione, però parlavo dei costi complessivi. Sapete cosa mi fa impazzire? Vabbè. Che l'ospite che vi sto per presentare, per la buona notizia, secondo me ha in questo momento un contorcimento delle budella, e vediamo di capire perché. Luca Cesaretti, uno dei soci fondatori di Ales Tech, buonasera. Buonasera a tutti. Come vanno le budella? Beh, abbastanza bene, non troppo, ecco. Però cosa fa l'Ales Tech? L'Ales Tech sta lavorando ad un innovativo sistema di levitazione magnetica. Quindi treni, ecco perché dico, sì, che... Quindi treni, ha sentito treni... delle Ferrovie del Sud-Est, era in collegamento già? Sì, ho sentito qualcosa e... Sì, ho sentito bene, sì. Allora, cosa fate voi? Quanti anni ha lei? Chi vi ha finanziato e quanto fatturate? Ma allora, io ho 25 anni, l'Alestec è stata fondata un anno fa, partita con l'obiettivo di sviluppare le prime sospensioni per Hyperloop, nuovo mezzo di trasporto lanciato da Elon Musk. Siamo partiti a maggio dello scorso anno, abbiamo raccolto i primi finanziamenti che ci hanno permesso di realizzare i primi prototipi. Nell'estate dello scorso anno sono stati realizzati questi prototipi in Italia, poi sono stati spediti negli Stati Uniti, dove lavoravamo con i nostri partner, università americane, e là abbiamo installato i nostri sistemi che poi sono stati testati al primo evento che si è tenuto su scala internazionale di Hyperloop, che è stata la SpaceX Hyperloop Pod Competition, che si è tenuta a Los Angeles a questo gennaio presso la sede di SpaceX. Quanto state fatturando e chi vi ha aiutato? Ma allora, adesso attualmente non stiamo fatturando nulla, praticamente, perché siamo in una piena fase di ricerca e sviluppo. Quello che raccogliamo è tutto impiegato per la ricerca e sviluppo. In particolare in questa fase stiamo sviluppando questo sistema insieme ad un'altra azienda italiana, la Girotto Brevetti, che è un nuovo sistema di levitazione magnetica chiamato Aerolev. E quindi ora è tutta ricerca e sviluppo per noi. Chi ci finanzia, in passato siamo partiti grazie all'aiuto di business angel, di privati che hanno creduto nel nostro team e nel nostro progetto. Adesso stiamo in ricerca di altri finanziatori per supportare questa nuova fase, questa fase successiva del nostro progetto. Ecco. Quanti siete? Siamo in totale circa una decina di persone. Siamo partiti, eravamo in quattro, l'Alestec, quattro fondatori, me e Lorenzo la parte più tecnica, entrambi veniamo dall'Università di Pisa e dalla Scuola Superiore Sant'Anna, abbiamo studiato ingegneria meccanica, gli altri due membri del team, il lato più business, più economico e il lato più legale. Ecco, è vero che lei ha 25 anni, anche i suoi fondatori e gli altri soci sono molto giovani, ma... ce la fate a starci dentro? Come diceva Moretti in un famoso film, Ecce Bombo, ma le sigarette come le comprate? Ce la facciamo. Ce la fate? Sì, ce la facciamo. È chiaro che siamo molto trainati dalla passione e da quanto comunque dalla voglia di contribuire, di fare dell'innovazione vera, ecco. Allora, in bocca al lupo a Luca Cesaretti, 25 anni, insomma, tempo, però bravo che ci ha già messo in gioco, e i soci fondatori di Alestec, appunto, sperando appunto che arrivino i primi contratti. Devo dire che qui però i business angels hanno funzionato, perlomeno nella parte iniziale, visto che vi hanno fornito 200.000 euro. Traffico. Focus Economia. Dunque, la borsa, come sempre, ne abbiamo già data in apertura, giornata, ripeto, oggi molto piatta, più 0,45 Milano, più 0,80 Parigi, più 0,40 Francoforte, più 0,60 Londra, Saipem meno 3,50, Bipre Bank meno 3,20, UX Interporte meno 2,80, Banco BPM meno 2,40, Mediaset meno 1,60, fronte opposto Brembo più 2,50, come Exor, Azimut più 2,20, Leonardo più 2,2, Case New Holland più 1,60 come Banca Generali, Moncler e Banca Mediolanum, migliore in assoluto WM Capital più 34%, peggiore in assoluto Innovatech meno 13,67%. Dicevo, pochi spunti, abbiamo già detto che sulle banche vendite non ci sono novità se non le dichiarazioni che abbiamo fatto ascoltare del ministro Padoan. Invece vorrei chiudere la settimana con questa vicenda, al di là di Esselunga, dove i vertici hanno di nuovo oggi smentito che non c'è nessuna intenzione di vendere Esselunga ai cinesi, in questo caso era Ida International che offriva 7 miliardi e mezzo, la notizia che ci ha incuriosito è questa, cioè che il gigante delle vendite online Amazon ha comprato con un'operazione da quasi 14 miliardi di dollari i negozi fisici di Whole Foods per 42 dollari per azione. Nel frattempo il gigante della distribuzione dei negozi fisici americani, dei department store, Walmart, ha acquistato per 310 milioni di dollari la società Bonobos, che rivende online abbigliamento e accessori maschili. Dunque, professor Sandro Castaldo, che insegna marketing e consumi all'Università Bocconi di Milano, buonasera. Buonasera. Poi riprendiamo magari il tema, ma mi dice nei prossimi 4 minuti che cosa sta succedendo? Cioè Walmart si compra, Amazon dall'online si compra i negozi fisici di Whole Foods e Walmart, che è il negozio fisico per eccellenza, va su Bonobos? Guardi, il motivo è molto semplice. Tutta la letteratura, tutte le ricerche, abbiamo recentemente fatto una ricerca anche da Bocconi sul tema specifico, dicono che il cliente multicanale, cioè quello che spende sia online sia offline è più ricco, è un lifetime value più elevato, quindi spende di non più. Non ho capito perché l'inglesismo è un cliente più ricco? Più ricco nel senso che ha una spesa, uno scontrino medio più elevato e ha un valore nel tempo no? più elevato, quindi se io riesco ad attrarre questo cliente, ovvero il cliente che compra sia online che offline, ho una base cliente più ricca che sviluppa maggiore marginalità. Il cliente monocanale, quello che compra solo in un canale, in media compra meno in termini di spesa e prodotti di prezzo più basso. E da qui che cosa però? Cioè che più canali ho... Prego. Esatto, più canali ho, più ho la possibilità di agganciare questo cliente multicanale, avendo anche la possibilità di dare al cliente in ogni momento del suo no, viaggio, customer journey, come dicono no, gli inglesi, come dicono gli americani, cioè il suo viaggio di acquisto, la possibilità di acquistare online, di acquistare nei punti di vendita fisici, di prendere informazioni online e acquistare punti di vendita fisici, o al contrario, andare a prendere informazioni nei punti di vendita fisici e poi acquistare online. Quindi la multicanalità che oggi si trasforma in omnicanalità, cioè dare al cliente la possibilità di acquistare e assumere informazioni online e offline senza soluzioni di continuità, è quello che... Però Amazon ha specificato che, allora, questo vale chiaramente anche per Walmart che va a comprarsi il rivenditore online di abbigliamento e accessori maschili per rafforzare le vendite via internet. Walmart vuole fronteggiare la concorrenza di Amazon, ma su Amazon che dice io manterrò però il marchio Whole Foods e quindi spende 14 miliardi ma non lo chiamerà Amazon, qual è secondo lei la logica di Amazon? Ma per attaccare sul grocery, Amazon chiaramente... Attaccare sul, mi scusi, la sento male. Grocery, sull'area del largo consumo, sull'area dei prodotti del supermercato, per intenderci, quindi sulle categorie, perché Amazon è entrato nel mondo dei libri, poi è andato nella tecnologia, poi è andato no, nel general merchandise, nei prodotti vari, diciamo, quello che viene chiamato in Italia bazar. Oggi su Amazon possiamo trovare tutto. Recentemente è entrata sia in America, ma anche a Milano, nell'area del... prodotto di largo consumo, il prodotto tipico che troviamo al supermercato, il fresco, i prodotti certo. confezionati, il detersivo e via dicendo. Per attaccare diciamo, questa categoria c'è bisogno di un punto di vendita fisico, di grande prossimità, ad esempio a Milano ha sviluppato una partnership con UNES per con UNES, offrire il, sì, suo certo. lavoro, il suo servizio. Quindi hai price. Bisogno, se vai sul prodotto fresco, se posso dire quello che ho capito, anche del luogo fisico, cioè non riesci a fare un conto e vendere un libro o un maglione o un paio di pantaloni, altra cosa è vendere una mozzarella, la dico male ma insomma per farmi capire, la mozzarella è un prodotto fresco, ho capito bene? Chiarissimo, esattamente. L'ultima domanda che ho per lei, ma è una curiosità mia, quando avverrà o quanto manca perché le varie eBay, Amazon, Alibaba inizino a offrire alla loro clientela anche servizi di carattere bancario? Al di là dei regolamenti, che poi insomma dire, sai, visto che tu hai fatto, non so, 100 acquisti con me, sono tutti dati a buon fine, perché non metti anche dei soldi da me o non ti tieni un capitale che io ti remunero a un certo tasso di interesse da cui che puoi scalare per i prossimi acquisti? Chiaramente, come giustamente diceva lei, questo dipende dalle normative nazionali, però potenzialmente una volta che io ho la relazione con il cliente, ho acquisito la sua fedeltà, è un problema solo di tempi e di autorizzazioni, ma se vediamo quello che per esempio ha fatto Tesco no, in Inghilterra o Sainsbury, offrono servizi bancari e servizi assicurativi e sono tra i principali intermediari finanziari in joint venture con le banche naturalmente nell'ambito dei loro paesi. Tesco e Sainsbury sono due catene di supermercati. No, lo dico perché ogni tanto rivolgo la stessa domanda al mondo bancario che giustamente adesso ha le prese con i consolidamenti, con gli NPL, con le sofferenze, con le aggregazioni, poi a mio avviso nel futuro dovrà anche capire da dove arriverà la concorrenza anche da soggetti non immaginabili. Grazie anche a lei e abbiamo fatto passare gli inglesismi, mi scrivono alcuni, no non è vero, glielo ho corretti gli inglesismi, grazie a Stefano Castaldo che insegna marketing e consumi all'Università Bocconi di Milano. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, un ringraziamento come ogni fine settimana a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione al programma, un augurio da Sebastiano Barigione di un buon fine settimana soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.